Nel periodo tra il 29 dicembre e il 22 gennaio sono stati sospesi i trasferimenti da Lampedusa. Il 24 gennaio il CSPE è diventato CIE, quindi le persone che sono ospitate adesso nel CIE, alcune di loro sono qui dalla fine di dicembre, sì, dagli sbarchi di Natale, dei giorni di Natale. Dopo l'annuncio del governo di volere convertire il centro di prima accoglienza al centro di identificazione ed espulsione e lasciare tutti i migrati che rimanessero qui finché venissero espulsi, c'è stato il problema perché il centro di accoglienza aveva la capacità di ospitare 500 immigrati, al massimo 800. Ma dopo l'annuncio del ministro degli interni sono arrivati a 1900. Vi è all'interno di quella struttura CIE una presenza esagerata di militari, circa 300 e oltre, cosa che prima non c'era. Questo ci fa paura perché effettivamente lì è ormai un carcere vero e proprio. In quest'isola il destino dei migranti e il destino dei lampedusani è legato strettamente, è profondamente in relazione. I diritti umani dei migranti possono venire negati in un'isola dove continuano ad essere negati i diritti civili di chi ci abita. Tanti di quei poliziotti di Guardia di Finanza e dell'Arma dei Carabinieri sono giunti qui nel territorio non tanto per il fenomeno dell'immigrazione clandestina, ma quando il popolo si è ribellato in quella che era la scelta scellerata del governo di creare un CIE sul territorio di Lampedusa. E allora dopo qualche giorno il ministro o il governo ha pensato di militarizzare l'isola, mettendo un carabiniere ogni tre cittadini. Questa è la realtà, arrivano a Lampedusa circa 1200 uomini in stato di assedio. L'isola si è trasformata. La logica dell'emergenza non solo consente sprechi di risorse economiche e consente devastazioni ambientali, ma è anche una metafora della violazione poi dei diritti in genere, dei diritti umani e dei diritti stessi della comunità locale che viene coinvolta volente o nolente in questo fenomeno. Cioè, se per costruire un centro di accoglienza o un CPT, come prima si chiamava, non è necessario un progetto, è evidente che non si possono valutare prima e quindi evitare e gli impatti ambientali, paesaggistici sul territorio, ma è impossibile anche valutare in maniera preventiva come vogliamo accogliere i migranti, in che spazi e in che condizioni vogliamo farli vivere. Loro stanno costruendo senza un progetto, senza preventiva protezione di incidenza, in un'area che è sito di importanza comunitaria e zona di protezione speciale, istituite in applicazione di due direttive comunitarie che prevede speciali misure di tutela per territori che appunto ospitano specie o habitat rare perché minacciate di estinzione. Se questo effettivamente è realtà, dovremmo essere tranquilli, perché quello che si sta facendo alla base Loran, cioè l'edificazione o meglio il posizionamento di tutta una serie di container per fare un'altra struttura, un altro centro che non si capisce dopo la conclusione dei lavori se verrà adibito a CIE o a centro di soccorso e prima accoglienza, perché c'è, guarda caso, un segreto di Stato, e allora lì, se così è, sono lavori abusivi, allora vanno bloccati. Il sindaco sta facendo confusione, perché quando lui dichiara alla stampa che Lampedusa è contro il CIE, però nella città, nella base Loren, vuole, in una cittadella dell'accoglienza, lui la definisce, la chiama così, di 2000 posti, ci sono dichiarazioni alla stampa del sindaco che io ce l'ho, virgolettate, 2000 posti. La Loren ne ha uno spazio circa, mi sono informato al comune, all'ufficio tecnico, sono 498.000 metri quadrati. La base Loran sì, la base Loran no, lo vedremo nel tempo, nelle prossime giornate, sedendoci attorno a un tavolo con il governo nazionale, e capiamo effettivamente quello che accadrà. Allora, il sindaco avrebbe oggi il potere di bloccare i lavori abusivi, ripeto, abusivi, che si stanno eseguendo all'interno della Loran. Non sarebbe necessario nessuno scontro armato con la polizia, non sarebbe necessario pretendere dai lampedusani che continuino altri mesi di dura lotta sfidando chissà quali leggi dello Stato, sarebbe sufficiente invocare il rispetto della legalità.